Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: tra poco dovrebbe iniziare la conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri, mentre c'è già stata quella del Presidente Confindustria Squinzi e attendiamo forse anche novità sul fronte della Regione Lazio, anche oggi sviluppi, ma soprattutto segnalo, ne parleremo più avanti, un articolo del Sole 24 Ore di oggi a firma di Gianni Trovati, in cui emerge sostanzialmente, poi ripeto, daremo tutti i dettagli, come al di là dei casi appunto su cui indaga la magistratura, ma insomma l'intera gestione della Regione Lazio in questi anni, mi dispiace dirlo, di Giunta Polverini, sia stata una gestione manica larga, insomma, per essere buoni. Perché? Perché anche se venissero messi in pratica i 20 milioni di tagli annunciati 2 giorni fa dalla Polverini, beh, si tornerebbe alle spese del 2009, il che vuol dire che a budget dal 2009 ad adesso erano aumentati di 20 milioni di euro le spese per la regione, più 24%. Allora, mentre un paese affronta la crisi più grande dal dopoguerra e con tutte le conseguenze che raccontiamo da 4 anni a questa parte, e mentre la politica continuava a parlare della necessità di rinnovamento, le regioni, esempio virtuoso, la Regione Lazio ha fatto in 3 anni più 24% di spese, passando da 79 milioni di euro, che è il costo della Regione, a 98 milioni di euro. In particolare, ma le ripeto, poi sarà tema alle 18:10, le spese per il funzionamento del Consiglio, attenzione alla definizione, sono cresciute del 103%, passando da 15 a 31 milioni. 15 milioni in più. Beh, sotto la voce spese di gestione del Consiglio si comprendono tutti i costi burocratici, le commissioni, i gruppi monoconsiliari, tutte queste spesucce allegre. Pensate che in Italia comunque i 1111 consiglieri regionali costano in media 740.000 euro l'anno ciascuno. Ma si può? Cioè, abbiamo 1100 consiglieri regionali che costano 740.000 euro l'anno ciascuno. Voglio dire, alla faccia che poi le regioni dovrebbero essere esempio virtuoso. Qui, vabbè, non fatemi parlare subito, che ne parleremo più avanti, ma di questo parleremo anche perché, ripeto, ci sono delle cose che tuttora gridano vendetta, al di là dei casi singoli, i 2 milioni di euro accumulati in 2 anni da almeno 2 milioni di euro da Franco Fiorito e quant'altro, c'è una norma che continua a gridare vendetta ed è quella introdotta, e su questo la Polverini ha delle responsabilità enormi, perché la norma fu introdotta con la sua gestione. Ricorderete la vicenda della lista del PDL che non fu presentata alle elezioni. Allora, cosa è successo? Che come risarcimento molti degli assessori della Regione Lazio sono persone che non avevano, sono 14, anzi sono tutti esterni, cioè non sono stati eletti, non facevano parte del consiglio regionale come consigliere e diventano assessori, vengono presi da fuori. C'è chi sospetta come così premio o in qualche modo il risarcimento per non aver fatto partecipare alla lista del PDL. Il problema è che una norma inserita dalla Regione Lazio fa sì che il vitalizio, che già secondo me è uno scandalo, non solo venga dato a chi è consigliere della regione, quindi eletto con le elezioni regionali, ma anche agli assessori esterni, il che vuol dire che anche gli assessori esterni si beccheranno dopo 5 anni di giunta 3.000 euro al mese di vitalizio, 3.000 euro al mese, con un costo di 1 milione di euro lordo per i prossimi 30 anni. Complimenti, devo dire, la norma non esisteva, è stata introdotta con questa giunta. Chiuso il tema della Regione Lazio, emblematico, parliamo di tutte le regioni, lo dico tranquillamente in generale. I temi della giornata economico-finanziaria: mercati deboli, meno 1,20% Milano, meno 0,60% Parigi, invariata Francoforte, meno 0,70% Londra, meno 0,14% l'America. Devo dire che oggi lo spread si è rimosso a quota 350 punti base, ma al di là di questo è salito sia quello italiano che quello spagnolo. Però di nuovo l'asta spagnola, cioè la Spagna ha chiesto prestiti sul mercato per il suo debito, un'asta di bot, come diremmo noi, comunque di bonus, ne ha collocati quasi 5 miliardi con una domanda nettamente superiore all'offerta, e questa è una buona cosa, e i tassi sono calati dal 6,6%, erano dei BTP spagnoli a 10 anni, dal 6,6% al 5,6% e al 3,80% il rendimento per il BTP spagnolo a 3 anni. Quindi un buon dato per quello che riguarda la Spagna. Parleremo di Spagna, ma anche torneremo a ospitare manager di gruppi, manager italiani, di colossi che hanno successo a livello mondiale, per capire da loro, l'abbiamo fatto tutto il 2011-2012, ripartiamo per dare dei consigli a chi è in ascolto su come si affronti questa crisi. È vero che i consumi sono in calo, in Italia mai così male dal dopoguerra, ma non è che il mondo si sia fermato, non è che il mondo abbia smesso di consumare, forse bisogna cambiare la mentalità e l'atteggiamento anche a partire dai manager. Ecco perché ospiteremo volentieri uno di loro. Tra l'altro, è una cosa che abbiamo fatto nel passato e continueremo a farla, ci piace quando questi manager hanno anche un'attività importante di beneficenza, di charity, perché non solo etica e utile si possono far convivere e possono convivere, ma soprattutto in molti casi è la strada sana per far crescere un'azienda. Ma ne parliamo tra un attimo, le altre notizie in breve. Per quello che riguarda i mercati, segnalo bene oggi l'automatica più 2,40, autogrill più 1,70, impregilo più 1,40, male invece di nuovo il Monte dei Paschi, meno 4,80, tutte le banche, Popolare Emilia Romagna meno 4,50, Banco Popolare meno 4,21, Popolare di Milano meno 3,95, Mediobanca meno 3,30, Intesa San Paolo meno 3,20, Unicredit meno 2,70. La crisi e gli esuberi bancari non solo in Italia, ieri abbiamo parlato dei 20.000 tagli ipotizzati, di cui 8.000 solo al Monte dei Paschi. Oggi il Wall Street Journal sostiene che entro fine anno la Bank of America dovrà licenziare 16.000 persone. Sul fronte benzina, mentre il petrolio è in calo $91,50 al barile a New York, oggi il sottosegretario allo sviluppo economico De Vincenti dice: stiamo lavorando in tempi stretti ad un provvedimento per sterilizzare l'IVA sulla benzina. Vuol dire che se il prezzo del petrolio aumenta tanto, tu abbassi un po' l'IVA in modo che l'incasso per lo Stato sia lo stesso, ma costi un po' di meno a noi, cioè non abbia l'effetto amplificatore, visto che è una tassa, no, proporzionale. Devo dire, speriamo che stiano lavorando alla cremente, ma è la terza volta, almeno a memoria mia, che un vice ministro, sottosegretario, promette che il governo lavorerà sulle accise. Speriamo che sia la volta buona. Dunque, c'è chi dice le regioni italiane sono 20, non esiste solo il Lazio. Avete ragione, abbiamo raccontato proprio 2 giorni fa quali regioni siano più virtuose e meno virtuose, e Lazio non era necessariamente la meno virtuosa, sia come costo dei consigli comunali. La Sicilia costa 175 milioni, pensate che la Lombardia ne costa 75, non capisce perché la Sicilia debba costare 100 milioni in più rispetto alla Lombardia. L'Emilia Romagna, che non mi sembra una piccola regione, ne costa 38. Il Lazio ne costa 102, per cui non è solo il Lazio. Il problema è che il Lazio in questo momento, dopo l'inchiesta della magistratura, si sta rivelando un germinaio, no? E a chi mi chiede quante auto blu ha il virtuoso Veneto, l'abbiamo denunciato, ne ha più di tutti. La giunta regionale del Veneto ha 307 auto blu, è un record che batte tranquillamente anche il Lazio, che ne ha 76, ma anche una regione come la Lombardia che ne ha 96, 307 auto blu, il Veneto. Torniamo ai nostri temi. L'Istat diffonde il dato oggi sul fatturato industriale a luglio più 1,2%, ma è un meno 5% rispetto a luglio del 2011, tiene solo l'andamento delle esportazioni, male il mercato interno. Gli ordinativi però a luglio hanno fatto più 2,9% su giugno, ed è una buona notizia, ma sono comunque a un meno 5% rispetto a un anno prima. E oggi c'è una notizia curiosa, perché Union Camere, attraverso la associazione Union Filiera sulle filiere dei distretti, ha calcolato che le filiere italiane che lavorano nell'Italian style, cioè moda, oreficeria, nautica e quant'altro, scontano 341.000 imprese, 1.400.000 addetti e un fatturato che sfiora i 200 miliardi di euro. Cioè la filiera del Made in Italy, dell'Italian style, vale come tutta la regione Piemonte quanto a imprese. La Fiat Amalfi, la produzione sarà sospesa dal 17 ottobre al 6 novembre e poi si è preso oggi, tra l'altro, da una comunicazione del sindacato, per i 5.000 operai sarà chiesta la cassa integrazione. Ecco, voglio far notare una cosa. In un colloquio con il Sole 24 Ore, il numero uno della divisione europea di General Motors, Thomas Cedran, ha spiegato che Opel, nonostante il buco da 600 milioni di dollari nei primi sei mesi dell'anno, va male Opel, ha anche esuberi, Opel non taglierà gli investimenti in nuovi modelli né rivedrà il programma dei nuovi modelli. Perché? Indovinate un po'. Perché vogliono essere pronti, pur avendo molte difficoltà anche la Opel, quando partirà la ripresa. Da qui al 2016 la Opel immetterà sul mercato 23 nuovi modelli o restyling e 13 nuovi motori. Allora, Marchionne, dobbiamo capirci, perché altre case automobilistiche, pur in difficoltà e chiaramente, classicamente in concorrenza con Fiat, come la Opel, come altre, continuano a investire in nuovi modelli e in nuovi motori? Perché dicono prima o poi arriverà anche una ripresa, vogliamo essere pronti, e invece lei continua a ritenere che non si debba investire in nuovi modelli e in nuovi motori in Europa perché il mercato è fermo? Sono pazzi gli altri? Una domanda, eh? Magari c'è una strategia diversa, però fa un po' specie. Di questo oggi ha parlato anche il presidente della Confindustria Squinzi, ha detto: l'Italia non può non avere una grande industria dell'auto. Io sono in difficoltà a parlare di Fiat perché, come presidente di Confindustria, perché Fiat basicamente non è più un associato di Confindustria. Da imprenditore e da cittadino italiano ritengo che sia molto importante che ci sia un colloquio tra il governo e la Fiat, perché Fiat è un pezzo importante del nostro sistema manifatturiero italiano, l'ho già detto nei giorni scorsi, un grande paese industriale non può non avere una forte industria automobilistica. Mi auguro che le difficoltà attuali del mercato siano temporanee. Ci aspettiamo tutti, cioè non mi sembra logico che siamo ritornati indietro di 40 anni nei consumi nel nostro paese. Questo vale per il settore automobilistico, ma vale anche per tanti altri settori, perché per esempio io, che sono legato come fornitore al mondo delle costruzioni, vi ricordo che nei primi sei mesi di quest'anno l'attività edilizia in Italia è diminuita di oltre il 25%. Ecco, non è una situazione normale e non può essere una situazione che dura nel tempo. E Squinzi ha poi annunciato che a giorni inizierà il tavolo con i sindacati sulla produttività, e poi ha detto: attenzione, nei prossimi anni il rischio è che la pressione fiscale, anche con l'attuazione delle misure fiscali previste dalle ultime manovre, si collochi intorno al 45%, che diventa un 55% se il calcolo viene fatto sottraendo il PIL sommerso. Ancora due notizie, poi partiamo con il primo tema, e quindi i consigli che possono dare i manager di successo, chiamiamoli così. a chi in ascolto. La vicenda Alcoa, il sottosegretario De Vincenti dice: attenzione, ci sono altre due manifestazioni di interesse oltre a quella di Glencore e del fondo Clash. Tra l'altro c'è anche un interesse da parte di una grossa società cinese che avrebbe già chiesto di avere accesso alla data room, e un'azienda torinese. Infine, delle 200.000 tredicesime da restituire per un errore dell'INPS, non parlo, ne ha già parlato oggi ampiamente Deborah Rosciani durante Salvadanaio. Il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, ha detto: beh, vanno restituite. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, in attesa del Consiglio dei Ministri e poi di fare anche l'approfondimento sulla Regione Lazio, su come è cambiato il bilancio della Regione Lazio in questi ultimi due anni. Vorrei, si può dire, respirare, aprire il tema, cercare di capire come si fa, che qual è la prospettiva che arriva da un colosso mondiale, che qual è la fotografia che arriva sui consumi che sono in calo ma non sono fermi, e anche, se permettete, come si fa a coniugare utile crescita economica con etica e quindi beneficenza, charity. Parliamo del gruppo mondiale, il colosso giapponese Sanrio, oltre 1.000 dipendenti, un fatturato di oltre $1 miliardo, e la metà di questo fatturato è riconducibile a un personaggio che alcuni di voi conoscono. Siamo impazziti, Hello Kitty è uno dei fenomeni di maggior successo a livello mondiale. Pensate che la Sanrio, che è la società giapponese appunto che è proprietaria di Hello Kitty, ha in licenza, cioè dà in licenza qualcosa come 12.000 prodotti diversi nel mondo con il marchio Hello Kitty. Da lì arrivano buona parte dei numeri di cui parlavamo, e siamo con il responsabile di tutta la parte di vendite e gestione del gruppo Sanrio, a parte Giappone, quindi a livello mondiale, che è un italiano, si chiama Roberto Lanzi. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, vediamo di capire intanto il tipo di attività e poi, come dicevo, spieghiamo anche meglio perché lei, come hanno fatto altri suoi colleghi, viene ospite per raccontare cosa si può fare per far fronte alla crisi in un mondo che, per carità, ha i consumi in calo, ma non è che si sia completamente fermato. E poi ci interessa soprattutto, come in altri casi già avuti, la sua panoramica globale, visto che lei si occupa di gestire prodotto e licenze in tutto il mondo tranne il Giappone, vuol dire Sud America, Medio Oriente, Africa, Europa e quant'altro. Allora, voi i soldi, per dirle in maniera brutale, come li fate? Date in licenza? I soldi li facciamo in tre modi principali. La Sanrio è nata 55 anni fa come azienda di dettaglio, quindi noi gestiamo ancora più di 400 negozi aziendali al momento e un migliaio di franchising. Noi solo in Cina abbiamo 120 negozi monomarca Sanrio. Non abbiamo negozi in Europa, ben pochi, abbiamo solo a Hamburgo, ne abbiamo uno a Londra, perché l'Europa da tanti anni il rapporto costi gestione di un negozio e vendite di prodotti non necessari è un rapporto molto sbilanciato. Ne abbiamo tanti, 160 negli Stati Uniti, ne abbiamo tanti in Medio Oriente, ma non qui. Questo è stato l'inizio di Sanrio. Poi Sanrio si è sempre prodotta gli articoli per questi negozi con i propri marchi, e l'attività, quella considerata oggi sicuramente la più importante per i profitti e perdite, è l'attività di licensing. Chiariamo cosa vuol dire. Cioè, voi avete questi personaggi, Hello Kitty è più famoso, ma c'è anche Melody, Twin Stars, sono 400 personaggi, avete il quartier generale in Giappone, come dicevo, ma anche Stati Uniti, in Germania la base europea, sì, e abbiamo Hong Kong, Cina, Taiwan, Corea. Però voi date, concedete l'uso della licenza a chi? Noi cediamo l'uso dei diritti, a più di 1200 aziende nel mondo che vanno da Nestlé a Smart, ma che sono anche OVS, Marks & Spencer o Carrefour o quant'altro, e loro fanno produzioni a marchio pagando delle royalty per l'uso dei di diritti. Questi diritti. Cioè loro producono astucci piuttosto che vestiario, generi alimentari, carta igienica. Sì, la carta igienica con Hello Kitty sopra è un po' inquietante, è però uno dei prodotti più venduti in Europa nell'ultimo anno e mezzo, quindi non lo dicevo a caso. No, ci mancherebbe, le credo. Tanto l'Italia è il leader mondiale nella produzione di carta igienica, il distretto è un italiano quello che ha la licenza, si chiama World Card, è italiano. E sarà tra Lucca e Pistoia, immagino, no? Perché il distretto della carta credo sia Veneto. Comunque, tornando a noi, voi cedete e vi fate pagare per questo con delle royalties, il diritto, e date il diritto a questi grandissimi distributori di produrre quello che vogliono. E quanti sono? Più di 1200 aziende. Con i nomi che avete sentito, Marks & Spencer, Carrefour, OVS da noi. Sì, noi abbiamo Swarovski, o lavoriamo con un sacco di aziende del lusso. C'è anche Swarovski che fa cose, i gioielli per gli Hello Kitty. Assolutamente. Noi facciamo anche diamanti veri con Kimora Lee Simmons, una ex modella americana che da 10 anni produce diamanti a immagine Hello Kitty. Cioè. Ecco, a noi interessa chiaramente, al di là del settore in cui lei opera, ci interessa, come abbiamo sempre fatto con chi l'ha preceduta, la visione globale. Penso a Andrea Guerra, numero uno di Luxottica, penso a Stefano Beraldo, numero uno di Coin, OVS, e adesso anche UPIM, e a tanti altri manager, Marco Palmieri, Brunello Cucinelli, che hanno questa capacità, e poi vi arriveremo anche di coniugare profitto con etica, ma adesso lì ci arriviamo, ma che hanno anche una visione globale. Allora, in questo momento noi siamo alle prese con una crisi di consumi, soprattutto in Italia, ma non solo. Lo scenario che lei vede è quello che noi raccontiamo tutti i giorni, cioè c'è una frenata vera in Europa e tutti gli altri mercati, a partire da Sud America, Cina, Medio Oriente, che invece crescono con numeri interessanti. No, non è vero. La frenata è assolutamente mondiale, non è assolutamente vero, almeno io dico sempre il mio punto di vista, certo. Non ho... è comunque misurato sempre su dei numeri, non è solo un'impressione. La frenata è davvero globale. Le sacche di paesi che non hanno subito la crisi, o anzi che al contrario stanno avendo una crescita, sono assolutamente minime confronto al mondo che sta vivendo dei problemi. Quindi non sono sufficienti per un'azienda a controbilanciare. Assolutamente. Lo stesso Sud America, che ha avuto anni di performance straordinarie, il Brasile l'anno scorso ha fermato la crescita, l'Argentina sta tornando in una situazione raccapricciante, hanno bloccato i pagamenti sull'estero per la bilancia dei pagamenti a febbraio, il Venezuela non è neanche visitabile. La Cina è uno dei problemi più grossi che io vedo, la Cina è un'economia molto giovane, molto instabile. Negli ultimi tre trimestri hanno visto questo calo, pur essendo ancora un paese in crescita. Però quando sei in questa situazione di grande crescita, ti spaventi di più di un piccolo calo della crescita di paesi che sono abituati a crisi. Come noi, diciamo, che crescono poco da anni. Quindi lei dice la frenata nel 2000, fine 2011, inizio 2012, metà 2011, inizio 2012 c'è stata dovunque. Ovunque. L'unico continente dove vedo davvero dell'attività è il continente africano. Non per capacità interna, ma per investimenti cinesi. Certo. La Cina ha portato tantissimi capitali in Angola, in Ghana, in Niger, creando infrastrutture, cominciando a lavorare, ed è un continente in fermento. Ma vedo veramente poco. Poi ci sono le nicchie, cioè l'Indonesia che sta andando molto bene, Thailandia, Malesia, ma nicchie. A noi interessa avere le analisi sia degli economisti, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, e quindi di chi ha i dati aggregati, i dati statistici e quant'altro, ma anche dei manager, degli imprenditori, degli amministratori delegati che si confrontano tutti i giorni su questi mercati, e ripeto, ne sono venuti tanti in questi anni, per dare un po' di visione e dire attenzione, quello che noi vediamo non è esattamente solo quello che viene sintetizzato dai dati statistici. Fra poco parleremo anche della borsa, che ha chiuso con un calo dell'1,67%. Vorrei però concludere l'intervista con il nostro ospite Roberto Lanzi, che è il manager che gestisce tutto il gruppo giapponese Sanrio, Osario, a parte che in Giappone e in tutto il resto del mondo, gruppo che tra l'altro ha 12.000 prodotti in licenza, cioè dare licenze per 12.000 prodotti o a oltre 1.000 società nel mondo, con personaggi, lo ricordo perché si fosse permesso in collegamento, di cui uno è, su tutti, Hello Kitty, che ha una figlia, una nipote, una cugina piccola, sa, o non così piccola, sa benissimo cos'è Hello Kitty. Allora, a me interessava la visione mondiale. Lei passa 300 giorni all'anno in viaggio per coprire tutte le aree geografiche di cui è responsabile. Diceva che si è fermato quasi tutto in quest'ultimo anno, a parte qualche eccezione, citava l'Indonesia e qualche altro caso, ma insomma anche la Cina con le sue difficoltà. Però il mondo non è che abbia smesso di consumare, i consumi sono in calo, insomma non si è fermato. No, assolutamente. Ha frenato. Allora, se lei dovesse dare un consiglio a chi lavora, in questo caso non solo nella manifattura, non solo chi fa l'industriale in senso stretto, ma chi è anche un manager, chi lavora soprattutto nei servizi, dove delle volte c'è una lentezza a innovare, a capire che si può creare valore aggiunto se si cambia testa. Ecco, quali consigli darebbe se avesse un figlio, diciamo, o un parente? Io non sono sicuramente la persona più indicata, perché non ho un background MIT. Ma guardi, il background Harvard MIT ci ha portato anche a pie pari in questa crisi, ecco, nel 2008. Volevo però parlare proprio di questo. Uno dei più grandi problemi che hanno le aziende che stanno operando adesso nel mondo è l'immobilità, spesso dovuta al management. Tutti, a partire da me, stiamo diventando vecchi, non capiamo più i meccanismi che stanno muovendo il mondo. Per descrivere la situazione al mondo in questo momento, usando una bruttissima immagine, è una guerra mondiale, con la differenza fra questa guerra e le guerre di prima è che qui non ci sono contendenti, non c'è ancora un vincitore, sì, non si capisce capisce chi ne vincerà. Di sicuro il mondo è cambiato. Di sicuro non possiamo più avere 12 televisori al plasma in bagno, non possiamo più cambiare la macchina ogni due mesi, non possiamo più avere l'iPhone 9, 11 e 21. E il mondo è cambiato, ma non è solo una questione di non potere, comincia proprio ad interessare meno. Cioè, non è un problema di neopovertà, come spesso abbiamo spiegato, ma è un problema di neosobrietà. Esattamente. Anche se tu potessi, non hai voglia di spendere così tanto. Non ne hai voglia, non senti più questa emozione nell'avere il che nuovo... Non è sempre un male, adesso lo dico. Che non è sempre un male. Delle volte c'erano anche troppi bisogni indotti negli anni 80, 90 e inizio anni 2000. E al contrario facciamo molta, molta fatica a capire le nuove generazioni, i nuovi movimenti. Quindi chi nel nostro parco di aziende sta performando veramente bene sono stranamente manager molto giovani, sono stranamente persone che vengono da esperienze particolari e riescono a vedere, come dicono gli americani, out of the box, che non vedono tutto nelle 5 P insegnate in America, ma riescono a interpretare un po' meglio. Sono molto d'accordo sul fatto che il mondo non sia assolutamente fermo. Ci sono dei casi meravigliosi di new business o di modernizzazione. Quello che è certo è che c'è una grandissima immobilità, si sta facendo molta fatica a cambiare. Ecco, quindi c'è da un lato una frenata dei consumi dovuta, ripeto, in alcuni casi a una neopovertà, nel senso della riduzione tout court del potere d'acquisto. In altri casi, più frequenti, a una scelta, dire io non posso spendere tutto quello che spendevo prima, allora mantengo alcuni consumi più o meno invariati, altri consumi invece li riduco drasticamente. E vediamo cosa è successo nel mondo dell'automotive, delle auto, piuttosto che nel mondo della moda, in cui o anche nel turismo, dove il low cost, sia nel turismo che nella moda, è l'unico caso di successo che possiamo raccontare in questi anni. Però è un problema anche di priorità, cioè di neosobrietà. Non devo cambiare l'abito ogni stagione, non devo cambiare la macchina ogni anno. Detto ciò, però, lei dice, oltre a questo, ci sono anche dei manager che sono cresciuti, hanno studiato, hanno la testa vecchia, pre-2008, e non riescono più a leggere. Cos'è concretamente che non riuscite più a leggere? Beh, intanto sono sia i manager che le proprietà. Che le proprietà, intanto, bravo. C'è già un mix, perché si devono incontrare due entità, si deve incontrare un management e una proprietà molto aperta a lasciar fare, e questo non è da tutti i giorni. E poi c'è un bisogno estremo di portare giovani in azienda. Le aziende fanno fatica. la gente sta andando in pensione sempre più tardi, fanno fatica a portare giovani, fanno fatica a rinnovare il parco mentale dell'azienda. E questo non è un tema da poco, perché non si tratta solo di fare investimenti in senso stretto, ma di capire dove farli. Allora, leggere il futuro, cambia il mondo, cambiano i paradigmi, come avrebbe detto Kuhn, e ci troviamo di fronte a una nuova necessità di interpretare le dinamiche di un mondo che consuma meno, ma ripeto, non è fermo, no, non è che è chiuso in casa. Dunque, la prima variabile che noi vediamo è quella del low cost, cioè tutti quelli che riescono a organizzare strutture in franchising, per esempio, con costi molto bassi, parlo della grande distribuzione, della distribuzione alimentare, le catene di pizzerie piuttosto che di cibo online, l'occhialeria, cioè le catene, per esempio, pensate al successo di Luxottica da un lato, di Intimissimi dall'altro. Tutti quelli che c'è una nuova linea di cui adesso non ricordo il nome, addirittura del make-up, della cosmetica femminile a bassissimo prezzo, che sta avendo un successo incredibile, perché ci vanno le ragazzine ma ci vanno anche le loro madri. Kiko forse, bravo. Questa è una dimensione che noi vediamo in maniera molto forte, cioè chi riesce a coniugare prezzo con una qualità su beni che non ti fanno la differenza, non parliamo poi di Zara e H&M, vince. Altri elementi che lei vede come fondamentali o che contribuiscono ai casi di successo? Creatività. Eravamo per tanti anni, siamo stati fermi con la creatività, convinti che si potesse andare avanti per sempre. E un altro punto straordinario è la ricerca delle tendenze. Il sistema è cambiato completamente, la televisione non guida più nulla. Si è abituati a 30 anni dove vado in TV e vendo il mio prosciutto e tutto d'un colpo non è più così. La televisione non interessa, è frazionata, sono 600 canali, la guardano in tre e le aziende sono perse, non sanno dove mettere questi investimenti, dove spostarli per far conoscere questo prosciutto alla gente come prima. Questo è destabilizzante e ripeto, non avendo giovani, non conoscono il blogging, non conoscono tutti i meccanismi che stanno sostituendo un mondo vecchio. Io trovo questo punto fondamentale, cioè se tu devi lavorare in un mondo che è cambiato e in cui che tu non riesci più a leggere con i suoi paradigmi come prima, forse avere forze fresche in casa, mentalmente fresche, ti dovrebbe servire. Invece noi vediamo un percorso opposto in cui i proprietari tendono a mollare la presa molto tardi, l'età pensionabile si innalza per motivi di tenuta dei conti pubblici, i giovani entrano in azienda con stipendi obiettivamente spesso scadenti, i dati ultimi dell'Unione Europea erano devastanti da questo punto di vista. Mi dica una cosa, quindi un consiglio, un titolo a chi ci ascolta, agli imprenditori che ci ascoltano, sia che lavorino nei servizi sia che lavorino nella manifattura. Ma il consiglio è quello di diventare come tanti altri paesi hanno fatto negli anni scorsi, cominciare a guardare davvero in modo globale al mondo. Noi siamo rimasti, se stiamo parlando dell'Italia, sì, siamo rimasti molto italiani e non abbiamo questa capacità di guardare al mondo, non abbiamo capacità di affrontarlo. Il mio consiglio si risolve ancora nel ripeterlo: prendete dei giovani. Prendete i giovani, perché noi con le nostre teste non ne siamo capaci. Io non sarei più capace, sono stato capace quando era il mio momento. Beh, insomma, è una bella missione, perché lei non è poi così vecchio, insomma, quanti anni ha? No, 54 anni. 54? 54. In politica sarebbe una specie di principiante. Un bambino. Un bambino. Hello Kitty, vieni qua giù, fiocco rosso, naso di fu, al villaggio vieni anche tu. E adesso l'altro elemento che a noi piace coniugare quando invitiamo questi tipi di manager, ce ne sono stati molti altri nel passato, il tema dell'etica. Adesso non voglio tornare sulla puntata che abbiamo fatto sui tagli indiscriminati al welfare, agli insegnanti di sostegno in questo paese, mentre la regione Lazio e altre regioni italiane ballavano vari giri di valzer sul Titanic, né tornare al tema che abbiamo affrontato la settimana scorsa dello spreco alimentare come elemento non etico in una società in cui ogni italiano butta via 100 kg di cibo all'anno in media, bambini inclusi. Però vorrei capire, molte volte vediamo che le grandi società fanno tra virgolette beneficenza, charity come si dice, e abbiamo la sensazione che sia un'operazione di marketing, cioè dietro la CSR, la Corporate Social Responsibility, si nasconde spesso una mano di bianco, come dicono dalle mie parti, per così ammantarsi di un po' di eticità. Siccome noi riteniamo che non solo l'etica si possa fare assieme al profitto, ma sia parte stessa, diciamo, di un modo corretto di crescere, voi avete un'iniziativa importante per la Fondazione Sanrio, no? Che ha parecchie disponibilità. Hello Kitty, tra l'altro, è ambasciatrice dell'UNICEF. Dopo il terremoto e lo tsunami, voi siete intervenuti con il progetto Sanrio for Smiles. Che cosa fate, ma soprattutto perché lo fate? Per farvi un po' di pubblicità in maniera indiretta? Dando per assunto che il charity aziendale nasce solo per questi due motivi: nasce per pubblicità o per lavaggio di coscienza. Dando questo per assunto, questa è una delle ragioni per cui oggi sono in grande imbarazzo. Noi non abbiamo mai rilasciato un'intervista su questa commissione. Rifiutiamo qualsiasi richiesta di giornale, e qui devo fare a Sebastiano i complimenti e anche alla struttura per una assoluta prova di serietà, cioè l'accettazione di parlare di questa cosa, perché ne stiamo parlando a un tavolo serio. Grazie. Non a un magazine o non... Vabbè, non è che i magazine non siano seri, però... No, però voglio spiegare con attenzione questa cosa, perché un nostro obiettivo in tanti anni in azienda è sempre stato quello di non mischiare queste due cose. Facciamo attività di charity addirittura portando in giro marchi non nostri, proprio per non dare l'impressione, addirittura marchi italiani. Noi facciamo operazioni negli ospedali, nei paesi dell'est e in Italia, usando in gestione gratuita i gormiti che appartengono a Preziosi. Quindi facciamo pubblicità a Preziosi. Siamo sempre stati molto molto molto attenti a non mischiare queste cose, anche se lo ritengo ovviamente impossibile. C'è da una parte un'azienda che fa business e utile, e dall'altra un ridare soldi in quello che noi crediamo essere il migliore dei modi. Questo è poco il nostro caso. Il nostro fondatore è ancora vivo, 85 anni, ha sempre fatto attività di charity pur non dicendolo a nessuno. Io ho cominciato le mie personali attività di charity a 15 anni, ne ho 54, e questo unire le attività di Hello Kitty al charity non è che uno strumento per poter... Usiamo Hello Kitty per tirare su più di quello che potremmo fare. Ma voi, lei ha lavorato molto anche con Gino, oltre che in Italia, anche con Gino Strada. Noi con Gino è un amico che mi è arrivato tramite un altro mio carissimo amico, uno dei miei migliori amici, che si chiama Nico Colon, ed è l'ideatore di Smemoranda, nonché uno dei soci di Zelig. Tramite Nico siamo arrivati a conoscerci con Gino e siamo arrivati anche a lavorare insieme, a prescindere da Hello Kitty. Io faccio dei lavori in emergency che non c'entrano nulla con Hello Kitty. Ultima domanda, ma quindi secondo lei un manager, un gruppo comunque di successo che fa utili, ha l'obbligo, diciamo, morale o no? No, non ha un obbligo, non sarebbe charity, questa è una cosa che ti devi davvero sentire. Io non ho mai criticato chi i soldi se li spende in barche o in aerei privati, non condivido. Ma questo non vuol dire criticare. Sono dell'idea che ci siano dei momenti, quando lavori bene e generi seri utili e non hai rogne e paghi bene i tuoi dipendenti e fai crescere la gente che è con te, ci sia sempre un margine di qualcosa che avanza per qualcosa di più bello di una barca. Però ho pieno rispetto di chi non la pensa così. Non è compito nostro cambiare il mondo. Il mondo sarebbe molto migliore se tutti pensassero un pochettino così, no? Grazie a Roberto Lanzi, appunto responsabile della Sanrio a livello mondiale tranne il Giappone. Grazie anche per i consigli che ha dato, che vedo molto apprezzati dai nostri ascoltatori. Grazie a voi. Adesso invece andiamo ai mercati globali e quindi alla borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Borse in Europa globalmente negative, ma Milano è la peggiore, tra le peggiori, meno 1,70%, meno 0,60% Parigi, invariata a Francoforte, Londra meno 0,60%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Cori sulle 24 ore. E qui c'è un dato cinese a pesare sulle borse, perché in realtà l'asta spagnola dei BTP e BOT è andata bene. Sì, l'asta spagnola è andata bene, ha mostrato una domanda forte, rendimenti in calo. A complicare oggi il quadro sui listini ha contribuito la flessione dell'attività manifatturiera in Cina, che ha mostrato l'undicesimo mese consecutivo in ribasso. Ha contribuito inoltre anche il dato sulle richieste di sussidi arrivate dagli Stati Uniti, che sono scese meno delle attese, e il superindice dell'economia, che invece è calato a sorpresa. In sostanza però Milano è stata la borsa peggiore, penalizzata ancora dalle banche, che hanno risentito in particolare del rialzo dello spread sopra quota 340 punti base e dei rendimenti che sono saliti sopra il 5%. Le banche, infatti, le citiamo dopo il GR, cosa, 20 secondi scarsi? Adesso 10. Le banche sono tutte negative a partire dal Monte dei Paschi, meno 5% come la Pop Emilia Romagna. Livia Zancaner, dicevamo male le banche, meno 5,30% il Monte dei Paschi, meno 5% la Popolare di Emilia Romagna, meno 4,40% il Banco Popolare, meno 4,12% la Popolare di Milano. E tu hai ben spiegato perché il dato cinese soprattutto e l'aumento, un rialzo degli spread tornati, quello italiano tornato a 350 punti, Mediobanca meno 3,5%, Intesa San Paolo meno 3,40%, chiudo con Unicredit che ha perso il 3,11%, Generali il 3%, UbiBanca meno 2,17%, Mediobanca tra l'altro ha diffuso i conti, utile a 81 milioni di euro, dividendo a 5 centesimi, l'utile è sceso parecchio però. Altri titoli, Pirelli, Ansaldo e poi Prelios, che è un titolo minore. Sì, allora Pirelli sta colpita dai realizzi in scia al settore auto, che ha perso l'1,60%, mentre ieri aveva guadagnato il 2% circa. Ha fatto male quindi anche Fiat, che ha ceduto il 2,3% sul settore, quindi su Pirelli e su Fiat ha risentito anche il profit warning, cioè l'allarme sugli utili lanciato dalla tedesca Daimler, che ha abbassato le previsioni di risultato operativo per il 2012 nel settore delle autovetture. Per quanto concerne Ansaldo, il titolo continuava a salire, ha guadagnato lo 0,70%, sempre sulle attese per novità sull'azionariato e sull'arrivo di nuovi ordini in Medio Oriente. Per quanto riguarda Prelios, il titolo questa mattina era positivo, poi ha girato in negativo e ha perso il 4,4% circa. Si tratta soprattutto di realizzi, dopo che ieri sera la società ha comunicato di aver ricevuto le offerte di Fados e Fortress Investment per entrare nell'azionariato del gruppo. Probabilmente il mercato teme un aumento di capitale funzionale all'ingresso dei soci superiore alle attese, quindi fortemente diluitivo per gli azionisti, quindi il titolo ne ha risentito e ha ceduto oltre il 4%. Ancora in assoluto il miglior titolo oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, Lottomatica, più 2%, Autogrill più 1,26%, Impregilo più 1,21%, e appunto di Ansaldo tu dicevi più 0,70%, positiva anche Luxottica più 0,36%, Finmeccanica invece perde l'1,80%, per citare l'auto Fiat ha perso il 2,32% e Fiat Industrial, quindi camion e trattori, meno 1,60%. In assoluto il miglior titolo Unione Alberghi Italiani più 9,40%, Sintesi più 7,80% e poi Ross più 5,30%. Il peggior titolo RCS Media Group meno 15%, Rizzoli Corriere della Sera, ma ha guadagnato il 160% dal 26 agosto, Telecom Italia Media meno 8% e poi CHL meno 5,70%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. E adesso, dopo aver ascoltato consigli a mio avviso molto utili del manager che gestisce il colosso giapponese in tutti i paesi del mondo, torniamo a occuparci, che invitava i manager italiani a avere una maggiore visione globale, noi dobbiamo ripiombare invece nei casi di casa nostra e tornare a occuparci del Lazio, della gestione diseconomica del Lazio, che si arricchisce di nuovi particolari dopo che stanno uscendo in questi minuti anche alcune indiscrezioni su quanto avrebbe detto ieri Fiorito, interrogato dai magistrati. Francesco Fiorito si è dimesso dal ruolo di capogruppo del PDL. E intanto però appunto emergono altri particolari. Un accordo di ripartizione dei fondi, infatti, è quello che sostiene esserci stato, lo sostiene Fiorito, tra i gruppi del Consiglio regionale del Lazio. Prevedeva 100.000 euro l'anno, tutti i gruppi,

vitalizio per gli assessori cosiddetti tecnici, che in realtà quelli non eletti sono semplicemente molto spesso dei politici che non sono eletti in consiglio regionale. Queste figure prima non avevano diritto al vitalizio, in questa legislatura regionale ce l'avranno, perché la riforma che ha abolito i vitalizi in realtà li ha nel frattempo estesi, perché l'abolizione scatterà solo dalla decima legislatura regionale, che è la prossima. Allora, questo che cosa vuol dire per i contribuenti laziali e anche un po' per tutti noi? Vuol dire che anche chi, già secondo me è assurdo il vitalizio al consigliere, cioè uno sta 5 anni in carica e poi si becca 3.000 euro l'anno, 3.000 euro al mese magari all'anno. Però il punto è che adesso con questa norma beccheranno il vitalizio anche gli assessori regionali, i 14 assessori sono tutti esterni, cioè nessuno è stato eletto, nessuno è consigliere regionale, con una spesa aggiuntiva di 1 milione di euro per 30 anni, quindi fra 30 anni chissà la crisi sarà passata, ce ne sarà un'altra, non lo so, ma quello che è certo in questo paese che i vitalizi resteranno a chi ha fatto l'assessore regionale nella giunta. Polverini, speriamo che venga levata sta norma al più presto e che gli levano il vitalizio. Non si capisce perché si innalzano le pensioni, si mette l'IMU, si chiede al paese veramente uno sforzo incredibile, le imprese, la cassa integrazione ai massimi, i consumi sono ai minimi dal 46, però c'è un mondo che noi cerchiamo di raccontare con la rubrica Ma cos'è questa crisi, che vive su Marte, o anzi vive in questo caso nel Consiglio regionale della Regione Lazio. Grazie Gianni Trovati, grazie. Grazie a voi. Super pensioni, più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, più auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. 30 anni ha questa canzone, mamma mia. C'è chi dice, ma insomma, perché bisogna ascoltare queste vicende della Regione Lazio dopo la bellissima testimonianza di un italiano che gestisce il colosso mondiale che produce Hello Kitty con i valori che ha trasmesso? Perché questo è il paese, non perché la politica sia cattiva sempre e gli imprenditori buoni sempre, ci mancherebbe, ma perché esistono persone che affrontano seriamente questa crisi, danno consigli, si mettono in gioco, lavorano, e sono tanti, tantissimi, ci sono fasce, categorie che di questo se ne fregano. Vorrei però, perché ci ha chiamato, salutare e ringraziare per averci raggiunto in collegamento il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera governatore. Buonasera dottor Barrisoni, buonasera a tutti. Allora, immagino, mi faccia indovinare, perché tanto o voleva parlarmi di Hello Kitty, che era il tema di come del successo mondiale di Hello Kitty, oppure delle 307 presunte auto blu della giunta regionale. Quale delle due? Intanto ringraziamo Hello Kitty, perché comunque fa lavorare tanto anche i nostri imprenditori in Veneto, perché abbiamo anche delle royalty rispetto, certo, a questa partita. E li conosco anche bene. Dall'altro la ringrazio per la disponibilità. E noi siamo vittima di una leggenda metropolitana del web, questa storia delle 307 auto blu che poi ogni volta tornano fuori. Allora, premesso che chi le parla non usa l'auto blu e fa gli incidenti anche con la sua macchina, ma non me ne vanto. Cioè non, beh, adesso incidenti no. No, ho detto l'incidente perché sono reduce da un incidente anche di sabato sera. Ma al di là di questo, purtroppo noi per eccesso di zelo abbiamo avuto dei dipendenti che nel censimento del parco macchine aziendale ci ha messo dentro quelle del genio civile, quelle dei servizi forestali, tutte le macchine aziendali di chi può fare l'assistenza. Quante domenica ne avete di vere auto blu, più i motoscafi? Guardi, i motoscafi io li ho fatti ridurre al minimo, penso siano 3 adesso funzionanti. E le auto, diciamo quelle di definite blu, quelle degli assessori, per gli assessori che ce le hanno, ad esempio, come ripeto, io non ce le ho e non chiedo rimborsi forfettari, e penso che siano 5 o 6, non di più, cioè questi sono i numeri che abbiamo, 6, 5, 7, adesso potrei farmi dire anche il numero, questa è la verità. Ma guardi, c'è stato un bell'articolo del Corriere della Sera che citava l'esempio di Hollande, che ha eliminato tutte le auto blu. E tutti noi sappiamo di questa storia. Di Hollande ha detto: chi guadagna 600.000 euro all'anno, parlava dei grandi manager, deve pagarsi l'auto. La verità è che questa è una bufala del web. Sì, quello la Francia non ha mai eliminato. L'abbiamo detto anche noi. Questo abbiamo detto anche noi. Senta, Zaia, però una cosa, se, va bene, prendiamo atto, ci mancherebbe, fa bene a correggere, noi cerchiamo di dare fatto bene, però mi dica una cosa. Spendere review, se mi permette di dirlo, io ho iniziato a farlo dal primo giorno. Ma a lei risulta che in Veneto comunque lo stipendio medio del consigliere, stipendio netto massimo del consigliere sia di 10.600 euro? Guardi, io non ne ho l'idea. Perché è uno dei più alti, questo, il più alto è la Lombardia con 12.600, il più basso è l'Emilia Romagna con 5.600 e soprattutto sui vitalizi. Ha sentito cosa abbiamo raccontato, che la Giunta Polverini ha fatto mettere vitalizi anche per gli assessori regionali eletti da fuori? No, guardi, io le dico questo, che io governo da 2 anni e mezzo, con noi si è approvato un nuovo statuto che ha ridotto i consiglieri regionali. Abbiamo ridotto 2 volte gli stipendi e in più le dico che abbiamo eliminato i vitalizi e abbiamo fatto una nuova legge elettorale per cui i veneti non avranno più gli stini bloccati. Cioè, questo è quello che le posso dire. Quanto agli stipendi, ci sono dei consiglieri che guadagnano più del presidente e io non so cosa dirle. Se vuole il mio stipendio, le dico che questo mese, detratto il contributo che versiamo, che mi sembra che sia di 1.700, la mia busta paga di questo mese 5.700 rotti più i 1.700, ci faccia la somma. Questo è il netto che ha percepito il presidente del Veneto. Se volete vedere la mia denuncia di redditi del 1995, vedete che non è inferiore a quello di oggi e facevo tutt'altro lavoro. Ma lo dico, quindi secondo lei no, mi faccia capire una cosa, Zaia. Quindi secondo lei, tecnicamente, dal punto di vista dei regolamenti interni, delle leggi, era facile fare la stessa cosa anche nel Lazio? Ma guardi, si può far tutto. Cioè, noi in Veneto, in 2 anni, dopo il primo anno, avevamo già approvato l'eliminazione dei vitalizi, e quindi siamo passati al sistema contributivo, quindi uno ha la pensione in base ai contributi che versa. Abbiamo ridotto i consiglieri regionali di 10 unità da 60 a 50, io le volevo dimezzati ma non ci sono riuscito, per poi consiglio. Ah sì, e mi sono dimenticato di dirle che su mia richiesta ho chiesto che sia bloccato anche il numero dei mandati per legge del presidente. Ed è stato fatto, quindi il presidente si fa 2 mandati come tutti gli assessori. Se crediamo nel ricambio, così si fa. Allora, no, per concludere, perché siamo veramente in finale del programma, Zaia, quindi secondo lei è d'accordo con quanto dice Fiorito? La Polverini non poteva non sapere, è passato da lei, visto che lei fa lo stesso lavoro della Polverini? Ma guardi, io non mi inserisco su questa polemica perché è troppo ghiotta. Dico semplicemente, no, ma guardi, cioè, non parlo di casa altrui, dico semplicemente che in Veneto noi abbiamo fatto le nostre riforme. Poi il Consiglio regionale ha sempre una responsabilità. Da noi destra e sinistra ha votato tutto assieme per le riforme e questo bisogna dirlo, a unanimità è stato votato tutto. Per cui il Consiglio poi non può scaricare sul Presidente. Il Consiglio, cioè, capisco che, come dice qualcuno, il capone non si organizza mai la festa di Natale, però si può far prima di Natale, no? Va bene, grazie per la precisazione. Lei non teme, in una battuta però, uno sputtanamento per tutte le regioni italiane? Cioè, qui continuiamo a raccontare di vicende che riguardano Lombardia, anche una volta la Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, cioè che crolli il mito, che crolli il mito, molto anche leghista, che la regione è gestita meglio dello Stato, della nazione? Ma guardi, il senso comune del pensare dei cittadini è che tutte ormai le istituzioni sono sputtanate ed è una sorta di rivoluzione del contratto sociale questa, no? È giusto che il cittadino, se pensa che il mondo è pieno di cialtroni, si rifacciano tutti i vertici e arriveranno quelli bravi per bene, che magari hanno tempo di fare i sindaci, hanno tempo di girare l'Italia, hanno tempo di fare un sacco di robe che io non riesco a fare, perché sono H24. Si sta riferendo a Matteo Renzi, immagino. No, io mi riferisco a tutti quelli che riescono a fare 10 robe contemporaneamente. I cittadini amano questo tipo di questo modello, lo facciano, non so cosa dirle. Grazie a Luca Zaia, governatore della Regione Veneto. Abbassare, non tregge più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, non tregge più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati, drag blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Buonasera. buona serata da Sebastiano Barisoni. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.